24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 18 minuti inizia la terza parte di 24 Mattino di questo mercoledì 27 maggio. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Adesso andiamo da Maria Latella, ma prima di andare da Maria Latella permettetemi di fare una piccola precisazione, di mettere una piccola nota. Spesso le intercettazioni, in questo caso addirittura le chat private, finiscono sui giornali. Di questo tema possiamo discutere all'infinito, il fatto che ci debbano finire o non ci debbano finire, quali ci debbano finire. Ricostruiscono qualche assetto di potere, ma spesso a volte sono pettegolezzi senza alcuna rilevanza penale. Allora, prima nella rassegna stampa, non per colpa di Paolo Mieli, ma per colpa mia, chiaramente, ne ho dato conto, no, di tutte queste conversazioni di Luca Palamara in un tono un po' ridanciano e forse entrando francamente, ma l'ho riconosciuto, no, durante la pausa, mentre un po' troppo nel dettaglio, in fondo che giocasse a burraco con Antonello Venditti è una cosa che non ha alcuna rilevanza, così come i suoi auguri o gli in bocca al lupo agli allenatori della Roma. Dispiace appunto averne dato conto anche con questo tono ridanciano e forse addirittura proprio di averne dato conto. A volte la frizione scivola a tutti. Cara Maria Latella, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Fammi aggiungere un'opinione personale. I giornali fanno il loro lavoro e danno conto di quello che non ha alcuna rilevanza penale, ma ha una rilevanza sociale. Io non mi intendo di calcio, ma il fatto che un calciatore, non ricordo nemmeno il nome e non è interessante neanche menzionarlo, però si rivolgesse a Palamara per poter diciamo fare carriera nel mondo degli allenatori, ecco, questa cosa a me un po' mi turba. Che c'entra? È quello che un dicevo, magistrato col conto, mondo del calcio, quello che dico, da conto di alcuni assetti di potere, da conto di alcuni assetti di potere, altre cose sono pettegolezzi. Francamente credo che sia utile anche per gli italiani capire che continuare a vivere in questo mondo in cui le relazioni contano più del merito non ci ha portato granché fortuna in questi 30 anni. Speriamo di cambiare, ma come è, diciamo, tradizione da quando c'è il coronavirus, io questa mattina vi do conto di come sta andando l'interesse dei media fuori dal nostro paese. Penso che possa essere utile anche per capire i meccanismi di potere che vigono in quei paesi. Qualche notazione su quello che interessa i giornali inglesi e che secondo me dà un'idea anche della battaglia che stanno conducendo. Si è parlato più volte del fatto che l'astuto e potente Cummings, che è diciamo il regista della comunicazione di Boris Johnson, quello che dicono l'ha portato al successo e a Downing Street e che si è fatto sorprendere a andare a trovare il figlio a 400 chilometri da Londra e non doveva farlo secondo le regole imposte appunto dal lockdown, ebbene questo Cummings è crocifisso da tutti i quotidiani britannici in prima pagina. E si capisce che molti sperano di far cadere Cummings per poi indebolire Boris Johnson. È una battaglia politica al di là del gesto scorretto di Cummings e francamente mi pare che la Gran Bretagna avrebbe altro di cui occuparsi che non il fatto che il portavoce del primo ministro sia andato a 400 km di distanza. Hanno un casino da gestire, non hanno ancora deciso se le scuole riaprono o non riaprono, pare che riaprano il 1° giugno, ma non è detto. Hanno anche loro serissimi problemi economici, eppure tutte le prime pagine sono dedicate, ma pagine e pagine sono dedicate al caso Cummings, arma per appunto indebolire il Premier, il mondo e il paese. Sicuramente. Continuiamo a parlare di giustizia. Andrea Giorgis, sottosegretario alla giustizia, appunto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Allora, Maria, vuoi iniziare tu? Sì. Vai. Buongiorno, sottosegretario. Vorrei che lei, dal ruolo che svolge, cioè sottosegretario al Ministero con un ministro Bonafede che solo pochi giorni fa è sfuggito alla sfiducia parlamentare, ci facesse capire che cosa pensate di fare rispetto al Consiglio Superiore della Magistratura, magistratura italiana che non tutta ma in parte emerge come preoccupata solo delle proprie carriere. Questo pomeriggio, come hanno anche anticipato i giornali, si svolgerà una riunione di maggioranza con il ministro, i due sottosegretari e i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari che sostengono questo governo. L'oggetto di questo incontro è quello di definire e velocizzare i tempi di questo processo di riforma, processo civile, processo penale e naturalmente del Consiglio Superiore della Magistratura. L'obiettivo, vorrei dirlo con molta chiarezza, è quello di rivedere sia le norme che disciplinano l'elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura, sia le regole che disciplinano il conferimento degli incarichi direttivi e la carriera dei magistrati. E ciò al fine di preservare la credibilità e l'autonomia della magistratura. Non c'è nessun obiettivo, volto che si possa considerare in qualche misura volto a ridurre l'autonomia e quelle che sono le prerogative della magistratura. Al contrario, noi abbiamo bisogno, di fronte a quello che leggiamo oramai da giorni, di modalità di selezione, insomma, degli incarichi, di difendere e di difendere la magistratura e di fare in modo che non venga meno la fiducia nella magistratura e quindi non venga meno quella legittimazione che è un architrave dell'ordinamento democratico e costituzionale. Quindi la prima nostra preoccupazione è quella di fare in modo, attraverso una riforma equilibrata e ancorata al dettato costituzionale, di difendere, ripristinare e preservare la credibilità e l'autonomia della magistratura. E da questo punto di vista, se posso anche entrare su un tema che a me sembra a volte venga trattato con una certa superficialità, il problema della degenerazione delle correnti è un problema serio che va affrontato senza cadere in quella semplificazione che tende a prefigurare come desiderabile una magistratura nella quale non è più possibile che si manifesti il pluralismo culturale, il pluralismo si usa il termine politico per esprimere un pluralismo culturale di cultura giuridica. Sì, De Giorgis, mi scusi, è chiaro, ne abbiamo parlato tra l'altro ieri con un magistrato, no, che è uscito presto dalla magistratura, 2 anni prima della scadenza, Piero Toni, come sa, ha scritto un libro, lo saprà, ha scritto un libro molto polemico, no, su questa degenerazione delle correnti. Sì. Cioè il fatto che ci sia un'aggregazione tra magistrati, per esempio sull'interpretazione della giustizia in certi modi e via dicendo, non è necessariamente un male. Detto ciò, Giorgis, qua siamo di fronte a una politica che per anni si è appoggiata alla magistratura, bisogna dirlo, insomma, e che adesso tenta di riformarla. C'è un fronte anche su questo, un problema anche su questo? Ma il nostro paese da tempo attraversa una crisi della rappresentanza e quindi una crisi della legittimità e della fiducia dei cittadini nella sfera politica. Questo purtroppo è un dato che dobbiamo considerare e che purtroppo io temo che non sia affatto stato superato questo problema. E qui noi ci troviamo di fronte però a una situazione che chiama per forza di cose la politica e quindi il Parlamento e se vogliamo il governo dal punto di vista dell'iniziativa a compiere fino in fondo quelli che sono i propri doveri costituzionali. Che ci sia un più generale problema di debolezza della sfera politica è purtroppo un problema che dobbiamo cercare di affrontare, ma adesso la riforma dell'ordinamento della magistratura, la riforma del Consiglio Superiore non può che essere fatta dal Parlamento e va fatta nell'interesse generale del buon funzionamento nel nostro ordinamento democratico, avendo ben chiaro che la posta in gioco è altissima, perché come dire, non scongiurare il rischio di una perdita, ripeto, di credibilità e di legittimità della magistratura significa correre il rischio di alla fine far cadere l'intero nostro ordinamento costituzionale. Cioè la posta in gioco è altissima, è davvero altissima. Certo, esattamente, sottosegretario, quello che preoccupa tutti. Un paese si regge quando il suo popolo crede sia nei politici che lo rappresentano che nella magistratura, che dovrebbe almeno garantire giustizia per tutti. Ma in un bel commento di qualche giorno fa, a proposito della classe dirigente, e la magistratura certamente lo è, Ernesto Galli della Loggia individua un elemento che fa la differenza tra una classe dirigente che funziona è una classe dirigente che non funziona, vale a dire il forte tasso di disinteresse personale, perché se c'è un forte tasso, certo, di disinteresse personale, certamente, è chiaro che il magistrato, il politico operano per il bene comune. Se l'interesse è solo personale, io non mi sento tutelata né dal politico né dalla magistratura, e questo spiega quello che lei stava dicendo, appunto una crescente disaffezione dell'opinione pubblica. La mia domanda è semplice: come si reintroduce una difesa e quindi un messaggio chiaro alla magistratura, in questo caso, che è il disinteresse personale il faro che serve, attraverso quale sistema per le carriere? Il sorteggio potrebbe essere una buona strada? Io penso di no. Io penso che il sorteggio non sia la soluzione. Non sia la soluzione perché il sorteggio impedisce che ci sia una selezione improntata al merito e quindi una selezione che faccia sì che a ricoprire gli incarichi direttivi e semidirettivi vengano scelte le persone più adatte, meglio capaci di svolgere questi ruoli. E poi perché il sorteggio muove da un assunto che io credo dobbiamo cercare di evitare prenda piede, cioè l'assunto di una magistratura come un corpo omogeneo che non ammette nessuna forma di pluralismo e in qualche modo rievoca l'idea del giudice bocca della legge, mero applicatore meccanico delle disposizioni scritte dal legislatore. Sarebbe una regressione culturale e non credo che risolverebbe i problemi che noi abbiamo di fronte. Quindi io credo che dobbiamo immaginare invece un sistema elettorale che valorizzi di più il merito, la credibilità, la stima che un magistrato nel corso della sua carriera ha acquisito, liberandolo quindi da una stretta appartenenza a un gruppo o a una, diciamo, associazione, e al tempo stesso però, guardi, me lo lasci dire, nel mentre dobbiamo costruire un sistema elettorale che, ripeto, valorizzi il più possibile la credibilità del singolo magistrato, e quindi, per fare un esempio anche molto concreto, dal Collegio Unico Nazionale a collegi più piccoli, che quindi rendano possibile la candidatura ed eventualmente l'elezione anche di chi, molto stimato, non ha una rete di appartenenza nazionale. Però dobbiamo anche affrontare il problema della riforma della legge elettorale con la consapevolezza che non sarà la sola legge elettorale a rigenerare e a ricostruire un rapporto di fiducia nella magistratura. È un passo importante, è una riforma necessaria, così come è necessaria la riforma delle regole che disciplinano il conferimento degli incarichi. Superare questa pratica delle nomine a pacchetto e quindi impedire che ci possano essere delle scelte che bilanciano tra le diverse correnti, come dire, correnti, sì, è senza dubbio una cosa che va fatta e va fatta subito. Però anche qui bisogna avere al tempo stesso la consapevolezza che per far funzionare bene anche le nuove regole, quindi dove ogni incarico direttivo viene immediatamente assegnato appena si rende necessario farlo, e beh, bisogna anche però che ci sia, come dire, un processo di consapevolezza e, sì, di, come dire, autorigenerazione, perché è impossibile immaginare che le sole regole determinino un superamento dei comportamenti poco virtuosi. A proposito Giorgis, però, dei comportamenti poco virtuosi e delle perplessità che vengono sollevate in queste ore. Allora, la grande domanda che sta aleggiando, insomma, senza girarci intorno e a prescindere da come verrà riformato il CSM, è questa. Visto quello che si dice Palamara in chat con altri magistrati, aveva ragione Berlusconi quando diceva che c'è un pezzo della magistratura che ha portato avanti una battaglia politica? Ha ragione Salvini quando dice che c'è un pezzo della magistratura che sta portando avanti una battaglia politica contro di lui? Aveva ragione a questo punto anche Renzi quando ha detto cose non proprio così nette ma parallele, per esempio sulle inchieste che hanno riguardato la sua famiglia? Guardi, io nonostante questi messaggi che sono stati pubblicati dai giornali trasmettano un'idea molto preoccupante di un certo modo di intendere il ruolo di magistrato, continuo a ritenere che i magistrati, compresi quelli che dovranno tra pochi mesi pronunciarsi sulla vicenda di Salvini, la Gregoretti, siano magistrati che opereranno in maniera imparziale nella, diciamo, assoluta correttezza deontologica, senza decidere sulla base di preferenze politiche o di condizionamenti che provengano da possibili messaggi. Però il problema, sottosegretario, mi perdoni, il problema è che i condizionamenti sono alla luce del sole, nel senso che è un anno che leggiamo che due esponenti del Partito Democratico, Luca Lotti, appunto molto vicino a Renzi, poi rimasto nel PD mentre Renzi ha fatto Italia Viva, e Cosimo Ferri, prima Forza Italia e poi PD, ebbene Lotti e Ferri incontravano Palamara all'Hotel Champagne per decidere chi andava da una parte, chi andava dall'altra, chi non doveva andare alla Procura di Roma, chi doveva andare alla Procura di Perugia. Ieri il magistrato Toni ci ha detto che queste cose si sapevano. Si sono accettate perché così fan tutti, poi adesso sono uscite le intercettazioni, il Trojan che ha voluto il suo ministro Bonafede, e si scoprono. Ma che cosa le fa credere che non continui così? Magari cambiando i protagonisti, ovviamente. No, allora, intanto non è che quando queste notizie, queste pratiche sono emerse, le si sia considerate come un dato inevitabile o una degenerazione non risolvibile. Mi lasci solo dire sulle intercettazioni, l'utilizzo del captatore informatico è stato disposto ben prima della nuova riforma sulle intercettazioni, ma questo magari ne discuteremo in un'altra puntata, perché è un tema molto serio quello delle intercettazioni e sul rapporto tra intercettazioni rilevanti e irrilevanti e intercettazioni quindi che legittimamente devono poter essere pubblicate e intercettazioni che invece è bene che non abbiano la ribalta mediatica. Ma per quanto riguarda i condizionamenti, io voglio credere, e tutta l'azione delle riforme che cercheremo di predisporre deve muovere dal presupposto che sia possibile immaginare un prevalere di comportamenti virtuosi e di atteggiamenti dei magistrati conformi a quelli che sono i loro doveri di ruolo. Io per fortuna continuo ad essere convinto che al di là di quelle che possono essere singole vicende ci sia la possibilità, attraverso il primo grado, il secondo grado, attraverso il giudizio di Cassazione, di arrivare a una decisione che sia una decisione giusta, una decisione improntata ad una imparziale applicazione della legge. Questi incontri e questi tentativi di orientare la scelta degli uffici direttivi e semidirettivi, io voglio augurarmi che non arrivi fino a produrre pronunciamenti volutamente ostili a un imputato solo perché appartenente a una forza politica. Se noi pensassimo questo, allora non avrebbe neanche senso cercare in qualche modo di riformare la composizione del CSM, le procedure di nomina degli incarichi, perché comunque se noi pensassimo che quella è l'antropologia di tutti coloro che partecipano della magistratura, allora cambiate le regole, l'antropologia alla fine avrebbe comunque la meglio. Quindi io devo dire, sono molto preoccupato da quello che ho letto e sono molto preoccupato dal rischio di una perdita di credibilità e quindi una perdita di fiducia dei cittadini anche nell'istituzione della magistratura, ma continuo a credere che la magistratura sia un corpo in grado di garantire una applicazione imparziale della legge rispettosa dei principi costituzionali e della separazione dei poteri e continuo quindi a credere che sia possibile contrastare queste pratiche che sono emerse in maniera davvero preoccupante. La ringraziamo per oggi la ringraziamo Andrea Giorgis, sottosegretario di Stato alla Giustizia. Torneremo da lei, torneremo a trattare questo tema perché insomma ci sono alcune cose che non, molte cose che non sono esaurite su questo fronte. Una pausa e poi Giorgio. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, bentornata, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi. Maria, prego. Buongiorno Giorgia Meloni. Buongiorno. Senta, ci dia la sua lettura del fatto politico del giorno ieri, nel senso che abbiamo visto come i renziani Italia Viva in Senato hanno fatto sì che Salvini, ovviamente con il voto del 5 Stelle, sfuggisse alla questione Open Arms. Contemporaneamente Patrizia Baffi, sempre lei di Italia Viva, è stata eletta a capo della commissione d'inchiesta sul Covid in Regione Lombardia. Come le sembra questa 1-2 della giornata di ieri? Ma guardi, francamente io non le collegherei. Nel senso che sono due dinamiche che non coincidono dal mio punto di vista, al di là della tempistica. La vicenda lombarda è appunto una vicenda lombarda, tra l'altro interna all'opposizione, per chi conosce la materia. La consigliera Baffi aveva già votato in modo difforme rispetto all'opposizione quando il Partito Democratico presentò la mozione di sfiducia all'assessore Callera, cercando di aprire una crisi in un momento di massima difficoltà per la regione, per strumentalizzare le difficoltà e come sapete le commissioni d'inchiesta di solito hanno una presidenza, diciamo, che comunque fa parte dell'opposizione, non della maggioranza, quindi è abbastanza naturale che, vista la difficoltà dell'opposizione di eleggere da sola perché non ha trovato l'accordo il proprio presidente, alla fine si sia scelta una posizione che può sembrare di mediazione. La vicenda invece di Open Arms, non so perché Renzi abbia cambiato idea, ma la posizione giusta è quella che ha espresso ieri e non quella che aveva espresso prima. E spero che sia semplicemente una posizione di buon senso. Sì, più perché... che posizione espressa si sono astenuti Meloni, però insomma sì. Insomma, è una posizione. Comunque una posizione, anche l'astensione, no, ma del nostro ordinamento. Poi, la domanda è politica, c'è un accordo? C'è un accordo? Lei vede un accordo tra Salvini e Renzi, non soltanto su questo, in generale? Non credo che ci sia un accordo e spero che non ci sia un accordo, perché non credo che Salvini avrebbe alcun interesse a mettersi a fare accordi con Renzi. Intanto perché, come si sa, Renzi è distante da noi anni luce. In secondo luogo perché non mi pare una persona particolarmente affidabile e in terzo luogo perché non mi pare che abbia un grande consenso da parte dei cittadini e quindi non vedo su cosa si potrebbe fare un accordo con Renzi. Poi io non sono Salvini e quindi non posso parlare per lui, ma insomma non lo vedrei francamente molto ragionevole. Vedo che se ne parla spesso, ma insomma penso che Salvini sia perfettamente consapevole del fatto che il suo campo è il campo nel quale anche i suoi sostenitori lo vogliono vedere, è quello del centrodestra. Su questo penso che non ci siano dubbi di sorta. Sì, se ne parla spesso, Meloni lo sa benissimo, perché continua a circolare questa ipotesi, si registra questa certa insofferenza di Italia Viva nei confronti del Presidente del Consiglio, c'è questa ipotesi del governone con dentro più o meno tutti, voi compresi. Vabbè, noi compresi, ma non si fanno i conti senza lotte. Voi ci stareste? No, io ho sempre espresso la stessa posizione e sono una persona noiosamente diciamo coerente. Io non penso che la soluzione per l'Italia, neanche in un momento come questo, potrebbe essere quello di un governo con tutti dentro. Quello che non capisco è perché, se ha fallito il governo giallo-verde e ha fallito il governo giallo-rosso, semplicemente perché i governi che mettono insieme tutto e il contrario di tutto tendono a fallire, adesso dovrebbe funzionare un governo rosso, giallo, verde, blu. E io dico che l'Italia ha bisogno di ben altro, che l'Italia ha bisogno invece di una visione economica chiara, di un'azione politica chiara, di un mandato forte da parte dei cittadini, di un governo che sia un governo politico e non di compromesso, per cui no, non ne farei parte, non significa che non farò sempre insieme a Fratelli d'Italia tutto quello che posso per dar una mano a questa nazione, lo abbiamo dimostrato anche durante l'emergenza Covid. Guardi, ieri abbiamo chiesto ufficialmente che le riunioni della cabina di regia tra governo e opposizione sul decreto rilancio si svolgano via streaming, che era la grande provata del Movimento 5 Stelle quando entrò nel Parlamento, perché io sono un po' stanca di sentirmi dire dal Presidente del Consiglio che loro sono dialoganti e che noi facciamo proposte pretestuose. Poiché il mio punto di vista è completamente diverso, io vorrei che gli italiani vedessero come si svolgono queste riunioni, quali sono le proposte che noi portiamo e come vengono trattate quelle proposte. E poi gli italiani giudicheranno. Curiosamente, a proposito di proposte, il 5 Stelle, che era il partito della trasparenza, ha detto di no. Ma diciamo un po', pure su questo non sono più coerente. Senta Meloni, una proposta lei l'ha fatta con una lettera al Corriere della Sera stamattina, in cui propone un'alternativa al MES, al Meccanismo Europeo di Stabilità. Ricorrere, lei dice, al Fondo Monetario Internazionale, perché il Fondo Monetario Internazionale ha la possibilità di creare nuovi diritti di prelievo. Era una ipotesi formulata dal Financial Times. Ci spiega come funziona e perché sarebbe, secondo lei, meglio ricorrere al Fondo Monetario Internazionale invece che all'Unione Europea? Beh, guardi, allora, l'Unione Europea, come sappiamo, ci sta dando molti problemi. Noi abbiamo bisogno di liquidità, abbiamo bisogno di liquidità subito. Purtroppo le risposte dell'Unione Europea stentano ad arrivare e quando arrivano sono molto spesso insufficienti. Vedremo come verrà formulato oggi la proposta definitiva sul Recovery Fund, ma siamo, dal mio punto di vista, abbastanza lontani. Il punto è che l'Italia, la grande nazione, fa parte di diverse organizzazioni internazionali. Una di queste è proprio il Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale ha questo strumento, che fu deliberato nel 1969, che sono i diritti speciali di prelievo, che sono sostanzialmente nuova liquidità. Liquidità creata dal nulla. E sono, se il Fondo Monetario Internazionale decidesse di attivare lo strumento, risorse che vengono distribuite a tutti i 189 paesi che fanno parte dell'FMI in quota parte sulla base di quanta parte, diciamo, pesi e detieni del Fondo Monetario Internazionale. Il Financial Times di recente, come lei correttamente ricordava, ha fatto la proposta di utilizzare questo strumento per affrontare la pandemia, generando 1.250 miliardi nuovi. In questi 1.250 miliardi all'Italia toccherebbero 40 miliardi, secondo la sua quota che è il 3%, che sono quindi più dei soldi che avremo con il MES, solo che in questo caso non è un prestito e quindi non sono soldi che hanno garanzie di, chiedo scusa, condizioni di sorta. Non c'è niente, semplicemente si vota, si genera, si distribuisce. E io non capisco perché il governo italiano non provi a lavorare per l'attivazione di questo strumento, facendo principalmente cosa? Sono gli Stati Uniti diciamo la nazione più importante da questo punto di vista, perché gli Stati Uniti, detenendo il 17% del fondo monetario, sono l'unico paese che ha diritto di veto. Per attivare lo strumento, chiedo scusa, serve l'85% di paesi che compongono l'FMI favorevole, quindi gli Stati Uniti da soli possono mettere il veto. Gli Stati Uniti non hanno, diciamo la verità, un grande interesse a attivare uno strumento del genere, perché come sappiamo il dollaro è la moneta di riserva per eccellenza, quindi agli Stati Uniti in teoria non conviene mai che si immetta nuova liquidità, ma in una fase come questa, anche per ragioni geopolitiche, penso che il governo, diciamo, se volasse a Washington e tentasse di parlarci, magari potrebbe scoprire. Meloni, mi permetta però di dire una cosa. Allora, un strumento di questo genere non si attiva dal giorno alla notte e i quattrini servono subito. L'Europa, in parte, che lei ne dica, insomma, l'intervento c'è, la Banca Centrale Europea sta intervenendo massicciamente con iniezioni di liquidità, acquisti di titoli, e lo sappiamo perfettamente che in questa fase la grande favorita da questo acquisto di titoli è l'Italia. È stato attivato il fondo Sure, c'è eventualmente il MES, che sia un prestito ma a tassi, come lei sa, molto bassi. Oggi si vedrà che cosa emerge con il recovery fund. Insomma, tutto sommato, io questa Europa, magari mi sbaglierò io, questa Europa così brutta e cattiva non la vedo in questo momento. Ma guardi, questi sono chiaramente punti di vista. Intanto ribadisco, non è che noi per chiedere l'attivazione dei DSP al Fondo Monetario Internazionale dobbiamo, diciamo, uscire dall'Unione Europea. Si possono fare tutte le cose insieme. Però secondo me potrebbe essere sul piano politico e geopolitico anche importante ricordare alla Francia e alla Germania, che nell'Unione Europea pensano di poter decidere della vita e della morte di ciascuno, che l'Italia è una grande nazione che è inserita in un quadro di alleanze e che ha, diciamo, anche altri amici. Mettiamola così. Forse potrebbe... Senta, Giorgia Meloni, le posso chiedere... Un secondo solo, voglio rispondere però sul tema dell'Europa e degli strumenti dell'Europa. Attenzione, perché... Allora, la Banca Centrale Europea sta acquistando titoli di Stato, ma non lo fa illimitatamente, cioè non fa quello che stanno facendo le banche centrali di tutto il mondo. Se la Banca Centrale domani decidesse di chiudere i rubinetti, noi saremmo spacciati, chiaro? Quindi ci stiamo legando mani e piedi. Poi io sono d'accordo al fatto che la BCE compri i titoli di Stato, quello che chiedo è che lo faccia illimitatamente. Questo ci consentirebbe, come abbiamo detto, con i bond patriottici che abbiamo proposto, di stare tranquilli senza dover ricorrere al MES, ai fondi, eccetera. Il MES è una trappola, lo penso e lo continuo a pensare, e mi dispiace se sono soldi così regalati. Non mi è chiaro perché Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, nessuno stia aderendo al MES. Il recovery fund, da quello che leggo stamattina, vedremo cosa ci dirà la von der Leyen, ma in pratica ci dicono i paesi falchi: se volete i soldi dovete fare le riforme strutturali. Le riforme strutturali che vuole l'Europa le conosciamo, non sono esattamente riforme fatte in nostro favore. Quindi, diciamo, rispetto a tutto questo, immaginare uno strumento per cui vai lì, voti, per cui non ci vuole tempo, ci vorrà tempo, vai lì, boh, ti prendi 40 miliardi, mi pare sicuramente, poi non è così facile. Senta, Giorgia Meloni, lei ci sta prefigurando appunto un'Italia che faccia sponda con gli Stati Uniti e che non sia quindi solo strettamente legata alla dimensione franco-tedesca. Ora però, uno, mi sembra che gli Stati Uniti stiano scegliendo una via di isolazionismo, non siano proprio interessatissimi a quello che succede da questa parte dell'Atlantico, o forse sì, lei che ne sa? Guardi, che ne so, intanto io voglio ricordare che qualunque posizione prendo, diciamo, sul campo dei rapporti internazionali, lo faccio sempre guardando all'ottica della difesa dell'interesse nazionale italiano. Sono distanti anni luce da quella politica italiana che ha pensato di dover fare la cheerleader dei leader stranieri o delle nazioni estere. Ciò non toglie che è vero, noi possiamo costruire e rafforzare rapporti di alleanze nell'ottica della difesa del nostro interesse nazionale. Cosa penso? Penso che, diciamo, la rigidità degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Europea sia in realtà uno scontro tra gli Stati Uniti e la Germania. E questo lo sanno tutti. Cioè noi paghiamo anche, noi italiani, paghiamo anche nel rapporto con gli Stati Uniti, diciamo, il fatto che la Germania si rapporti con particolare rilevanza grazie all'euro, grazie al fatto che rispetta le norme europee, grazie a una serie di cose che accadono. E quindi sicuramente immagino che agli Stati Uniti potrebbe probabilmente interessare avere rapporti per aiutare quella parte dell'Europa che sta soffrendo per lo strapotere della Germania. E ripeto che non vuol dire distruggere l'Unione Europea, vuol dire creare dei nuovi equilibri all'interno, diciamo, del quadro geopolitico, per non stare lì a dover quasi stare col piattino in mano di fronte a una Germania quindi, che non rispetta, quindi riequilibrare il potere tedesco, quindi riequilibrare il potere tedesco, dice lei, che con l'appoggio degli Stati Uniti, che bene o male si costruisce anche non violando le regole dell'Unione Europea, perché i tedeschi sono bravi a chiedere la rigidità a noi, ma poi violano da anni i limiti del surplus commerciale e nessuno dice niente, perché in Europa comandano loro. Senta Meloni, ma questo 2 giugno manifestate oppure no? Questo 2 giugno manifestiamo, certo che manifestiamo, l'abbiamo detto, lo facciamo, abbiamo semplicemente scelto di non fare una manifestazione, diciamo, di massa, perché gli alleati hanno espresso perplessità, anche se poi io vedo, siamo seri più responsabili di tutti, perché ogni giorno vedo una manifestazione diversa sembrata. però vabbè, si è scelto così e vabbè, non è importante. Si va a votare? Si va a votare il 20 settembre per le elezioni regionali? Spero di no, spero che si voti almeno il 27. Io penso che la prima data utile per votare sia il 27 di settembre, penso che votare il 20 sia assolutamente una forzatura, spero, penso che sia ancora di più una forzatura votare per le regionali, le comunali, in alcuni casi le municipali e anche il referendum. Penso che diciamo la maggioranza stia cercando di capire come può favorirsi con la data delle elezioni in queste elezioni regionali, e diciamo un governo normale queste cose non dovrebbe farle, per cui continuo a dire che la prima data utile è il 27, sia perché ci sia il tempo per fare una campagna elettorale che metta tutti nelle stesse condizioni e non favorisca chi ha dei ruoli istituzionali e quindi il governo, e sia perché non penso che sia un momento per creare altri danni per esempio al comparto del turismo. Grazie Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Buona giornata. Cara Maria, noi ci risentiamo domani, ovviamente alle 8:20, 8:15, 8:16, 17. Insomma, quell'area là, ci saremo. A domani. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, Anita Panizza, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli e Gloria Guerrera in redazione, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo i nostri autori. Noi ci risentiamo domani alle 6:30. Ciao.